Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno, buongiorno a voi. Ci sono buone notizie per oltre 7 milioni di italiani. Non si tratta di sgravi fiscali, Deborah, né di bonus particolari, ma dell'arrivo di una nuova classe di farmaci che sembra destinata a cambiare la vita a tutti coloro che hanno a che fare con la regina delle cefalee primarie, sua maestà l'emicrania. Ne parleremo tra poco con il professor Piero Barbanti, primario neurologo del San Raffaele Pisana di Roma. Ma nel frattempo, se soffrite di emicrania, battete un colpo, chiamate il nostro numero verde e raccontateci quali sono i fattori che a voi scatenano l'attacco. Il riposo dopo un impegno particolarmente stressante, pranzi o cene abbondanti, il bicchiere di vino in più, alcuni alimenti in particolare come gli insaccati, il formaggio, il cioccolato, la frutta secca, o invece il freddo in generale, però le variazioni climatiche, o forse gli odori, i rumori. Alle amiche di Cuore Denari chiederei anche se gli ormoni nel vostro caso congiurano nel favorire l'attacco. E allora, tanto che ci siete, ditemi anche cosa fate per cercare di evitare l'attacco, per spegnerlo, per renderlo meno doloroso, più breve. Mi fermo perché con tutte queste domande rischio di farvi venire il mal di testa, e allora passo subito la parola a Deborah. No, non è il caso proprio stamattina di farsi venire il mal di testa per tante ragioni. Intanto perché dalle 11.15 vi vogliamo lucidi, freschi, presenti a voi stessi per sedervi sui banchi della nostra scuola di risparmio, perché come ogni giovedì c'è l'appuntamento con Investire Informati. E poi non fatevi venire il mal di testa proprio oggi, perché dobbiamo conservare la lucidità in questa giornata in cui le borse tornano a scendere. Il motivo è presto spiegato: la colpa è ancora una volta del petrolio. Infatti oggi per Investire Informati abbiamo deciso di fare un focus proprio su questo argomento. Il ribasso così dirompente delle quotazioni, che impatto ha sulla nostra vita quotidiana, benzina a parte, cercheremo di fare un punto della situazione su questo, ma soprattutto capiremo come più in generale vanno gli strumenti che investono sulle materie prime. Gli specifici si chiamano ETC, c'è un mercato molto particolare e anche molto rischioso e speculativo. Faremo un punto della situazione anche su questo. Voi intanto su tutto l'universo mondo petrolio, se avete delle domande chiamateci all'800 24 00 24. Siamo solo noi che abbiamo letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi. Siete andate a letto tardi, vi siete svegliati anche voi con il grande Vasco, con il mal di testa, allora chiamateci e lasciate che ci prendiamo cura di voi, perché siamo in ottime mani. Oggi in linea con noi un grande esperto, il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana. Buongiorno professore, bentornato a Cuore Denari. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, grazie dell'invito. Buongiorno. Allora professore, buone nuove per 1.012.944.000 persone nel mondo. L'hai scritto a caratteri grossi, sì, per leggere tutto correttamente, una scaletta veramente carina. E in particolare per 7 milioni di italiani, tanti infatti secondo le stime sono le persone che soffrono di emicrania, quella che abbiamo definito in apertura la regina delle cefalee primarie. Ebbene, in arrivo una nuova classe di farmaci che dai dati raccolti sino ad ora sembra destinata a rappresentare una svolta importante nella cura di questo tipo di cefalea, tanto che anche una rivista prestigiosa come Science, che è una sorta di Bibbia, le ha dedicato un lungo approfondimento. Professor Barbanti, David Dodik della Mayo Clinic l'ha definita il progresso più eccitante ottenuto negli ultimi 20 anni nel campo dell'emicrania. Lei è d'accordo? Sono d'accordo. Ha detto da David Dodik, che è un tipo molto compassato, un canadese anche piuttosto triste come persona. Sì, sono andata a vedere la faccia. In Italia avrebbe poca fortuna, no, non in senso scientifico, ma in senso relazionale. Lo ma vado è sicuramente a cercare. Vero. Il motivo è molto semplice. Per il momento l'emicranico si è vestito con gli abiti smessi dagli altri. Una prova? Come si curava l'emicrania, come si cura fino adesso? Con farmaci riciclati, cioè un beta bloccante che abbiamo imparato a usare dai cardiologi. E il topiramato, il valproato, cioè antiepilettici utilizzati dagli epilettologi. Beh, è la prima volta che l'emicrania si fa fare un vestitino da solo per lei, e questo è importante per la specificità, per la selettività, per chi lo faccio un po' come lo voglio io. E quindi veramente le attese sono altissime, e David Dodik perde il suo tradizionale aplomb, per dire una cosa vera, sì, è veramente un progresso eccitante che aspettiamo ovviamente alla prova dei fatti su numeri grandi, ma già abbiamo grandissime evidenze. Bene, professore, quindi possiamo iniziare a sperare, ma prima di tutto cerchiamo di capire. Allora, ci aiuta a entrare un po' dentro la notizia, stiamo parlando di farmaci nuovi, primi farmaci biologici per emicrania, possiamo definirli così, studiati proprio ad hoc. C'è chi li ha paragonati addirittura ad un vaccino. Sì, beh, il termine vaccino è un termine che prende molto l'emotività, ma c'è un fondamento di verità, anche se tecnicamente non lo è. Ma diciamo agli ascoltatori cosa è successo. Si è identificata una molecola responsabile del mal di testa, dico una, non la, una, e questa molecola che ha un nome impronunciabile, faccio lo spelling adesso per non farlo più, si chiama Como Genova Roma Palermo, CGRP, peptide geneticamente correlato alla calcitonina. Beh, questa è l'indiziata, cosa fa questa molecola? Questa molecola viene liberata nelle terminazioni dolorose, dolorifiche del trigemino sui vasi cerebrali e li fa dilatare e infiammare, ma poi centralmente, dove il trigemino va a interfacciarsi col cervello, il CGRP ci mette il suo carico, insomma è un po' un mediatore localizzato in zone chiave del cervello dove si propaga il dolore. Bene, si è trovato la maniera per bloccarlo, e questo è l'elemento di novità assoluta. Quindi questi anticorpi, professor Barbanti, non bloccano l'emicrania sul nascere, ma diciamo così giocano d'anticipo evitando che si verifichino quelle condizioni che innescano l'attacco. Esattamente così. Sono stati prodotti degli anticorpi monoclonali, degli anticorpi, permettete la banalità, definiamoli così colloquialmente, anticorpi intelligenti, che bloccano questo CGRP, in alcuni casi bloccano il suo recettore, e gli ascoltatori credono spesso che curare l'emicrania sia trovare il nuovo analgesico. No, il curare l'emicrania nei soggetti con alta frequenza vuol dire trovare la maniera per fare in modo che questo allarme che suona a vuoto suoni non parta, meno spesso a vuoto, e questo fanno questi anticorpi monoclonali. Professore, dopo aver capito come funzionano, veniamo un po' alle caratteristiche di questa nuova classe di farmaci. Partirei dal modo di somministrazione, perché se ho capito bene basterebbe una sola iniezione per scongiurare del tutto gli attacchi per un periodo abbastanza lungo, si parla di 6 mesi, forse questo ha dato, no, l'idea di paragonarle a dei vaccini. Direi che i toni della stampa laica sono sempre un pochino più trionfalistici, non direi scongiurare, ma per ridurre sensibilmente gli attacchi per la durata della terapia, che è di 6 mesi. E non è di poco conto il fatto che basti un'iniezione sottocutanea al mese nel vantaggio del paziente, perché i nostri pazienti spesso, quando fanno le cure preventive, devono prendere 3 compresse al giorno o 4 di un farmaco preventivo. Se lo dimenticano, si annoiano, si stufano, vanno in vacanza e l'hanno dimenticato a casa. Quindi anche la possibilità che questo anticorpo iniettato dal medico sottocute mensilmente gli aiuti è legata al fatto che si sentono più liberi, e il paziente emicranico non è un vecchio, è abitualmente un giovane o una giovane donna più frequentemente, che nella vita ha anche ben altro a cui pensare, ben altro da fare. Vorrei andare agli effetti collaterali, che sono presenti necessariamente in ogni farmaco, ma in questo caso la regola sembra essere messa un po' in discussione. Professor Barbanti. È verissimo, il vecchio detto, chi bella vuole apparire un po' deve soffrire. Ecco. Sembra per questa categoria di farmaci così avveniristici, questo vestitino su misura così nuovo, non vera. Sappiamo che chi faccia cure per la prevenzione dell'emicrania rischia di aumentare di peso, rischia un po' di sonnolenza, rischia un po' di fatica, a volte rischia di calare di peso con un farmaco in particolare che è il topiramato. Beh, l'elemento sorprendente di questi anticorpi monoclonali, nella stragrande maggioranza dei casi, è che hanno una tollerabilità identica al placebo, cioè al farmaco non attivo, alla sostanza di paragone. E questo è un altro punto importante. Beh, certo. Cioè curarsi senza pagare dazio, perché passare da 8 mal di testa al mese a 2 mal di testa al mese con 3 chili in più, probabilmente era meglio stare dove si era prima. Bene, 800 24 00 24, arrivano, la carta arrivano. D'identità, no? L'abbiamo fatta di questa nuova classe di farmaci, ma nell'attesa che fare, no? Si chiederanno i nostri amici all'ascolto, ce lo stanno già chiedendo, allora il nostro numero è a vostra disposizione, ci sono naturalmente delle terapie farmacologiche, non farmacologiche, ne parleremo tra poco con il professor Barbanti, alimentazione, agopuntura, tecniche di rilassamento, alcuni integratori, l'attività fisica, aerobica, opportunamente, adeguatamente dosata. Quindi se siete interessati restate con noi, chiamateci, ma intanto diteci quali sono i fattori che vi scatenano l'attacco: stress, sonno, riposo, odori, rumori, ormoni e soprattutto che cosa fate per tenere a bada il dolore. Altra informazione importante: la vostra emicrania viene sola o accompagnata da altri sintomi? Penso alla nausea, ma penso anche alla fotofobia o ai disturbi visivi. Bene, credo che ci sia tutto, ci sono anche i nostri ascoltatori in attesa, salutiamo già Francesco, Cristina e Roberto, ci chiamano rispettivamente da Roma e due da Roma e, un, e Roberto da Como. Ma noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi ritorniamo subito dopo insieme con il professor Piero Barbanti. Cuore e denari. Le emicranie sono come i buoni propositi. Ce ne si dimentica appena il male è passato. Noi riprendiamo il passo con una frase tratta dal film Psycho. Voi siete d'accordo? Quando la vostra emicrania passa, voi ve ne dimenticate fino all'attacco dopo? 800 24 00 24 per parlarne con noi. Dolore lancinante, nausea, disturbi visivi, ipersensibilità ai suoni, agli odori e alla luce. Queste sono le diverse sfaccettature dell'emicrania, un disturbo che, attenzione, predilige le persone colte e intelligenti. Pensa, chi ne soffre? Perché no, io non ce l'ho mai. Neanche a me viene mai. Chi ne soffre? Generalmente una persona creativa, vitale, pronta, scattante, estrosa. Mi fermo qui perché con tutti questi, no, complimenti rischiate di montarvi la testa. Ma intanto chiederei subito a Francesco da Roma se si riconosce in, in questo profilo. Buongiorno Nicoletto e buongiorno a Deborah. Allora, il problema non sono io e mia sorella, sì, che vengo io perché lei in questo momento non può, non perché può. Ahimè, sta il problema che, di cui parlate oggi voi, ecco, che soffre anche due volte al mese, due o tre giorni a letto, praticamente gli fa, sì, esatto, purtroppo sì, infatti ha il problema che gli fa male il cervello, sia la parte superiore che la parte dietro la nuca, gli prende proprio questo fortissimo dolore al cervello, gli porta nausea, vomito e gli prende anche il dolore all'occhio, sempre allo stesso occhio, sempre allo stesso punto, tutte le volte che gli si manifesta. Come si può intervenire, visto che lei la risonanza magnetica non se la vuole fare perché non ce la fa né quella aperta né quella chiusa, ovviamente. Come si può intervenire? Questo voglio chiedere al dottor. Grazie, Barbanti. Grazie Francesco, grazie, perché professore, proprio qua un intervento in diretta. Abbiamo sì, la sorella di Francesco a letto, proprio atterrata dal mal di testa. Beh, prima cosa, veramente gridiamolo con forza: basta risonanze, non ce la facciamo più. Il ministro Lorenzin ce lo chiede: non serve la risonanza nella diagnosi di emicrania, serve un neurologo che faccia un esame neurologico. Faremmo mai fare la risonanza a uno con gli attacchi di panico? No. Quindi i sintomi che riferisce, anche se sono sommari, sono tipici: due o tre giorni, mal di testa più mal di mare, nausea, vomito. La sede dell'occhio è tipica, è la sede trigeminale, il trigemino è l'esecutore della volontà del cervello emicranico. La sorella di Francesco sappia che esistono medicine specifiche per spegnere l'attacco, specifiche, non bastano gli analgesici che si trovano nelle farmacie sul banco molte volte o nelle parafarmacie. Se ha solo due o tre attacchi al mese basteranno farmaci specifici, ma ci vuole una diga corretta, cioè, per capirci, se noi abbiamo un grave disturbo gastrointestinale non basterà prendere una limonata, ebbene gli analgesici da banco sull'emicrania sono a volte come una limonata. Messaggio telegrafico: nessuna risonanza, un neurologo, un esame neurologico e una buona ricetta. Professore, l'emicrania ho letto che è ufficialmente la terza malattia più frequente del genere umano, no? Dopo la carie dentale, la cefalea di tipo tensivo. È una malattia, e il racconto di Francesco lo dimostra, molto invalidante, ma sorprendentemente chi ne soffre cerca di venire a capo del problema da solo. Forse perché il mal di testa è considerato un disturbo minore, oppure perché è ancora radicata l'idea che non ci sia nulla da fare. Ma in tutti questi anni, professor Barbanti, lei ci ha spiegato che l'emicranico, oltre a non gettare la spugna e non deve rassegnarsi, deve, come ha suggerito a Francesco, affidarsi ad un esperto, anche perché il mal di testa, curato di volta in volta con farmaci sintomatici, di solito peggiora nel tempo fino a diventare cronico. È corretto? È verissimo. Non dobbiamo spaventare chi abbia 4, 5, 6 attacchi, diciamo uno, un attacco e mezzo, se si potesse dire a settimana, l'analgesico lo prenda con tranquillità, non ha rischi. Ma la realtà è che se nel soggetto gli attacchi di emicrania aumentano nel corso della settimana, ad essere almeno un paio, devi introdurre una cura preventiva, altrimenti superando i 10 o 15 giorni al mese di assunzione di analgesico, paradossalmente l'analgesico farà il contrario, cioè sarà l'acquisto di un biglietto, anzi di una serie di biglietti alla lotteria del mal di testa cronico. Non solo, è stato dimostrato che se io ho pochi attacchi al mese, ma li tratto male, ho più rischio di aumentare il numero degli attacchi, cioè anche chi ha 4 attacchi al mese, li tratti, ma li tratti non soffrendo, li tratti bene con farmaci specifici. Perché lasciare accesa una piccola fiammella di mal di testa, chiamiamola così, anche una volta a settimana, può in qualche maniera essere un investimento involontario e in negativo per non averne 2 di attacchi a settimana e poi magari 3. Ma lì il mal di testa si curano benissimo. Questo è un messaggio che dobbiamo dare ai 420 con farmaci sintomatici e preventivi meravigliosi. Andiamo a Cristiana, mi scusi, da Roma, e poi a Roberto da Como. Cristiana, buongiorno. Buongiorno a lei. Io soffro di emicrania, diciamo da 2 o 3 giorni prima delle menstruazioni fino a tutto il periodo. Sono arrivata ad avere anche 11-12 attacchi al mese. E li curo con Max Alt, mi dà sollievo, ovviamente, me lo fa passare. Certo mi lascia un pochino tonta, però sinceramente avere questi attacchi non si riesce a far nulla, ecco. Certo, io devo stare al buio, devo stare, non posso sentire i rumori, non posso vedere le luci, e quindi insomma è abbastanza fastidioso come problema. Professor Barbanti, Cristiana, sicuramente gli ormoni mettono lo zampino? Gli ormoni mettono lo zampino nella donna, intanto possiamo dire che Cristiana è una delle donne, il 60-65%, che può sperare che con la menopausa abbia un miglioramento, perché si dice troppo semplicemente che la menopausa è la guarigione del mal di testa. Non è vero, lo è nella maggior parte dei casi, specie nelle donne con mal di testa mestruale. Cristiana utilizza un triptano, un farmaco specifico, cioè un antidoto naturale, un naturale per quanto riguarda la natura del disturbo, come dico io, un pezzo di ricambio originale. Non le fa male e le fa bene, quindi il messaggio è che evidentemente Cristiana ha avuto contatti con uno specialista o con un medico informato che le ha dato un antidoto vero. Quindi bene così. Roberto da Como, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti quanti, agli professori. Io soffro ancora di mal di testa, andavo spessissimo l'aspirina, che poi a un certo punto non so perché non ha più funzionato. Un buon farmaco l'ho trovato nel Voltfast, però era un po' forte. Niente, mi è stato consigliato alcuni mesi fa caffè con mento e limone. Ebbene, io ci ho riprovato, sono lo stratestato, funziona il caffè con il limone. Roberto, intanto invito tutti i nostri ascoltatori a raccontarci quale rimedio utilizzano. Professor Barbanti, prima del commento con Roberto, perché ci sono anche buone nuove sull'alimentazione, su un modo diverso proprio. Sì. Di vedere l'alimentazione, di consumare, di arricchire la dieta, non deve essere una dieta di privazione, anche qui è una grande rivoluzione, ma vorrei leggere il messaggio che arriva da un ascoltatore. 40 anni, ripeto, tolto quasi del tutto il glutine, non ho più preso il medicinale, ma solo ogni tanto un altro, insomma, un sintomatico. Prima avevo attacchi un giorno su tre, duravano 48 ore, vomitavo, era terribile. Aiutate tanti ascoltatori dicendo che basta provare a togliere il glutine, salvate tanti ascoltatori come me. E insomma, è un appello molto accorato all'ascoltatore. Evidentemente è bastato togliere il glutine per spegnere gli attacchi. È possibile, è stata una coincidenza? Questo ci dà modo un po' di introdurre il discorso sull'alimentazione, un'alimentazione che è proprio considerata adesso c'è questa svolta, perché diventerà un modo, un farmaco, quindi prevenzione primaria e secondaria, è corretto? Esatto. Direi che la persona che ha tolto il glutine ha fatto una cosa, a mio modo di vedere, pericolosa. Ricordiamo che il glutine è alla base della dieta mediterranea, che è quella che ci fa vivere a lungo. Se noi ci mettiamo dentro una bolla di vetro, forse non ci viene neanche più un raffreddore, ma non è questa la cura. L'emicrania non dipende dalle allergie alimentari, non dipende dal glutine, dipende da un insieme di fattori genetici che si scontrano con fattori ambientali. Quindi la cosa migliore è non censurare la propria alimentazione, perché come diceva lei prima, questa è la rivoluzione vera di questi anni. Il cibo non è il nemico da togliere, ma l'amico da inserire, perché cibo uguale farmaco. Questo è un qualcosa di importante che sta aprendo le porte a prospettive completamente diverse, e viva Dio, l'emicranico faccia una vita normale. Il nostro ascoltatore suggeriva, questo è un po' un rimedio della nonna, il caffè con la goccia di limone. Ah, certo. Ma il caffè, io lo dico sempre, è il più bello psicofarmaco che esista, anche perché è rapidissimo. La goccia di limone è perché bisogna andare a canossa in ginocchio, è la sofferenza. La goccia di limone non serve, serve solo a soffrire. Forse, non so, un effetto antivomito potrebbe dare il limone così astringente. Il caffè non è solo un vasocostrittore, questa è l'ultimo dei suoi effetti. Il caffè agisce su un recettore molto strano, che si chiama recettore dell'adenosina, il quale, insomma, mette in ordine i neurotrasmettitori. Preso sapientemente alla dose di 60, 70, 80 mg, un bel caffè forte alla mattina, può essere efficace se hai l'attacco in corso. Se sbagli la misura e vai lungo e ne prendi troppo, ti devi leccare le ferite, perché ti viene invece la cefalea da sospensione di caffeina. Però certamente a chi ci ascolta, me incluso, che stamattina è svegliato con un mal di testa, prima di prendere un analgesico prenda un caffè. Potrebbe passare e risparmiare quindi un'assunzione di analgesico proprio. Tra poco diamo la linea al nostro GR, ma intanto vi ricordo il nostro numero verde, raccontateci che cosa vi fa scatenare l'attacco, ma anche come cercate di tenerla a bada, 800 24 00 24. Subito dopo il GR vi anticipo che parleremo di alimentazione. Il professor Barbanti ha detto verrà utilizzata proprio come una terapia, quindi per fare una prevenzione primaria e secondaria. Il professor Barbanti ci dirà quali sono gli alimenti che possono magari aiutarci in un attacco acuto, e poi ci sono anche degli integratori, ma soprattutto l'attività fisica. Molte volte gli ascoltatori ci scrivono: non vado più in palestra perché facendo attività fisica mi scoppia il mal di testa. Ebbene, l'attività fisica specifica, opportunamente indicata, produce degli effetti straordinari sul nostro mal di testa, sull'emicrania in questo caso. Professor Barbanti resta con noi, vi ho anticipato, quindi attività fisica e alimentazione per tutte le vostre domande subito dopo il nostro GR. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Torri. Torniamo in onda sulle note del Siegfriedo di Wagner, un dramma musicale che si apre con un ritmo martellante, pulsante, che si fa via via più intenso fino a raggiungere una pulsazione quasi dolorosa. Ebbene, secondo gli studiosi non è un caso che il dramma si apra così. Tutto questo non è che la rappresentazione di un doloroso, pulsante episodio di emicrania, disturbo di cui lo stesso Wagner racconta di soffrire descrivendone i sintomi nelle sue memorie, proprio nello stesso periodo in cui compose quest'opera, definendo proprio l'emicrania la piaga principale della mia vita. Sarebbe stata diversa la musica di Wagner se il compositore avesse potuto limitare i suoi attacchi, se avesse avuto un esperto, un neurologo capace di consigliargli la terapia ad hoc, professor Barbanti. Non possiamo saperlo, noi ci possiamo godere però la musica di Wagner. Ah, sicuramente sì. Della serie Non tutto il male viene per nuocere, almeno per noi. No, forse anche la tempesta neuronale dell'emicrania è giovevole, guardi che insomma anche il divo Giulio era un grande emicranico, gli ha funzionato bene, insomma. Infatti sono delle persone, devo dire, di alto profilo, gli emicranici. Oggi ci occupiamo di loro, ci sono delle belle novità, ne stiamo parlando proprio in questa prima parte di Cuore Denari. Professor Barbanti, alimentazione, attività fisica. Tante volte abbiamo sentito che il nostro stile di vita influenza la nostra salute, ma può diventare in questo caso, come in molti altri, anche terapia. In che modo? Allora, facciamo una cosa, un bel reset. Cancelliamo dalla testa di tutti quelli che ci ascoltano l'idea che i cibi inducano il mal di testa. Cancelliamolo definitivamente. Consideriamo che il digiuno scatena il mal di testa e che l'alcol, sopra una certa dose, dà molto fastidio. Punto. Cosa scriviamo su questa tabula rasa? Scriviamo invece un'altra cosa. L'emicrania è una malattia caratterizzata da un basso ma costante livello di infiammazione. Prendiamolo come atto di fede. Beh, alcuni principi attivi dei nostri alimenti contrastano questa low grade inflammation e quindi svolgono un effetto potenzialmente antiemicranico. Quindi mangiare, signori, non levare. Ma mangiare che cosa? Quelli più implicati nel miglioramento dell'infiammazione a basso grado sono in particolare i polifenoli, olio, tè verde, in parte nel vino. Chi frequenta gli ambienti sportivi sente di gente che mangia il riso scondito. Questi sono aspetti demenziali per un neurologo. L'olio, parte della dieta mediterranea, non fa vivere i mediterranei a lungo a caso, li fa vivere a lungo e anche meglio, quindi introduciamo questo. Altro aspetto della nutrizione, la vitamina D ha un potente effetto protettivo verso l'emicrania e quindi attenzione, lo scartare tutti i latte e latticini perché alzano il colesterolo e ho l'intolleranza al lattosio fatta in farmacia soffiando in un tubo taroccato. Terzo punto, gli omega 3, che non fanno bene solo per il colesterolo e per l'apparato nell'apparato cardiovascolare, ma anche per il fatto che consentono abbracci tra le cellule nervose. Posso dire una cosa sull'attività fisica? E certo, anzi, deve farmi proprio la posologia, attività fisica. Io vorrei fisica, fare sì. La ricetta e devo dire che ai miei pazienti ormai tendo a scrivere nella ricetta sempre anche questo. Un'ora di attività fisica aerobica che faccia consumare 400 calorie, un'attività fisica che possa essere con un battito cardiaco diciamo a 90, 100 massimo, camminata a passo svelto 3 volte alla settimana. Chi dice che ciò fa bene? Lo dice una letteratura serissima che ho in questo momento sotto gli occhi, meno 50% degli attacchi emicranici in soggetti che hanno fatto per 10 settimane un esercizio di questo tipo, confrontato a chi invece questo esercizio non l'ha fatto, ma udito udito, un beneficio che permane. Quindi anticorpi monoclonali anti-CGRP benvenuti nei centri, noi a Raffaele saremo uno dei primi al mondo a farlo, ma non è questa la chiave per tutti. Incominciamo a fare cose semplici, mangiamo bene, introduciamo nutrimenti, non leviamoci le cose a capocchia e muoviamoci 3 volte a settimana. Chi direbbe, ma io so l'artrosi, io ho il mal di schiena, bene, comincerai con 5 minuti, ma se diamo questo tipo di svolta, il cervello con l'attività fisica produce BDNF, un'altra sigla intraducibile, è un fattore trofico potentissimo, non è la questione delle endorfine, questa la sanno anche i sassi, è una questione di ramificazione, lo abbiamo detto già una volta, di cotonamento dei dendriti, cioè dei capelli, dei neuroni, che migliora la trasmissione nervosa e ottimalizza la funzione del nostro cervello. Professor Barbanti, mi sono segnata le 10 settimane, quindi se noi diciamo a un emicranico, magari oggi all'ascolto, che vuole fare con noi questo esperimento, sì, quindi da domani mettersi a fare, a praticare un'attività fisica regolare 3 volte alla settimana, aerobica, quindi camminata a passo svelto, jogging, corsetta, bicicletta senza il grosso fiatone. Okay. Benissimo, allora ci scriva, noi possiamo seguirlo con il suo aiuto sulla nostra pagina del nostro social per capire quanto e come può beneficiare dell'attività fisica, che effetto può produrre, provare per credere, sarà un vero piacere poter rispondere. Se poi a questa persona diciamo di mangiare senza saltare nessun pasto e di utilizzare nella misura corretta l'olio extravergine d'oliva, che vuol dire un potente apporto di omega 3 e di polifenoli, questa persona involontariamente starà anche abbassando quella infiammazione a basso grado, così si chiama in termini scientifici, che caratterizza gli emicranici. E quello che contiamo di pensare per un futuro è di validare uno stile alimentare per i figli anche degli emicranici, che sono ovviamente più a rischio, per fare in modo che non privando ma integrando possano avere minore possibilità di vedere fiorire un genoma che nel loro caso sarebbe predisposto a produrre attacchi. Professor Barbanti, la ringraziamo per essere stato con noi, per l'aggiornamento. Se volete farvi dare una mano, scriveteci a cuoredenari@radio24.it. Intanto possiamo, Deborah, andare. Sì, magari ancora possiamo anche riprendere un'altra domanda di un'ascoltatrice, visto che c'è aspettava un tweet. Da un po'. Sì, andiamo. Infatti. Fiorenza da Firenze. Ok, allora premetto che considero che sia una cosa del mio organismo, perché avevo anche un po' di scoliosi da bambina, adesso ho 67 anni, a quei tempi nemmeno lo riscontravamo, diciamo. Però ho risolto il mio problema dopo una vita di non le dico di che cosa, perché effettivamente era, come state dicendo voi, attacchi partivano dall'occhio, paresi, lingua, braccio e tutto, quindi l'unica cosa è prendere farmaci e andare a letto. E io ho risolto con, a parte la postura con sedute di yoga, bene? Sì. Molto, molto leggera, perché anche a quest'età non è che si possa fare cose forti. Mm. Più una visita dal Dognocchi, dalla dottoressa, e quindi mi ha fatto fare tipo trazioni, ma leggerissima al collo. Queste due cose fatte insieme, io non ho più da un anno queste cose. Evviva Fiorenza! Salto dalla gioia. Eh sì, vede che poi quando uno deve saltare dalla gioia i dolori non li sente più. Grazie, no, no, Fiorenza. No, no. Grazie a voi, complimenti. Grazie, complimenti anche a lei. Professor Barbanti, abbiamo chiuso con un'esperienza positiva e quindi con questa esperienza noi la salutiamo. Grazie professor Barbanti per essere stato con noi. Allora. Una buona giornata. Magari una volta. Buona corsa a tutti. Buona corsa a tutti. Una volta dovremo andare anche dal parrucchiere con i nostri ascoltatori, perché da quello che leggo, non solo su Twitter ma anche sui nostri messaggi al 349-238-6666, in molti lamentano che addirittura devono andare dal parrucchiere a fare qualunque tipo di trattamento, dal banale taglio e dalla banale piega, con la pillolina, appunto con l'analgesico, perché ne escono fuori sempre con doloranti. Chissà perché. Scriveteci. L'acqua fredda o calda, sì, per anche il lavaggio. La posizione del collo. Avevamo fatto, ti ricordi, con il professor Ernesto Di Pietro? Ah, sì? Il mal di testa da appoggiare quando ti appoggi sul lavatesta. Pensavo che fosse solo un mio problema, perché essendo alta non riesco mai a posizionarmi correttamente. Non che faccia tutte queste sedute dal parrucchiere, ammettiamo anche questo. Senti, che ne dici di cambiare argomento? Ma direi che tempo. Possiamo anche spiegare ai nostri ascoltatori che sentono tutto questo martellare, non sono le trivelle che vanno a caccia di petrolio, che è il tema che affrontiamo stamattina, ma sono dei lavori che sono in corso qui nel nostro palazzo, qui in via Monte Rosa al Sole 24 Ore, ecco, che ci stanno dando il tormento da un paio di giorni. Pensateci. Esatto, e a qualcuno ha fatto anche venire l'emicrania. Detto questo, adesso cambiamo argomento, parliamo proprio di quel tema sulla bocca di tutti, quel fattore che sta facendo tremare le borse, sta capitando anche oggi: il petrolio, che nel giro di un anno e mezzo ha perso il 70% del suo valore in termini di quotazioni internazionali. Dunque parliamo di petrolio e dintorni oggi nella rubrica del giovedì. Investire informati. Ne parlano tutti, vengono approfondite le dinamiche internazionali di carattere economico e politico che hanno portato al crollo verticale delle quotazioni del greggio. Noi oggi faremo un focus sugli effetti del mini barile sui mercati, sul carburante, sulla vita quotidiana, sui viaggi, su tanti altri aspetti ancora. Fra un po' ci raggiungerà Vito Lops, collega delle Sole 24 Ore, poi ci occuperemo per parlare di questi aspetti. Poi ci occuperemo anche degli strumenti di investimento nati da tempo appositamente per investire nel complessissimo mercato delle materie prime. Sono gli ETC, Exchange Traded Commodities, sono i fratelli degli ETF. Ci sono molti nostri ascoltatori che conoscono molto bene questo mercato, anche se per qualcuno appartiene ancora ad una nicchia di risparmiatori. Ci aiuterà a capirne qualcosa di più Giovanni Daprà, amministratore delegato di Moneyfarm, che intanto è già collegato telefonicamente con noi. E saluto Daprà, buongiorno e ben ritrovato a Cuore Denari. Ben trovato, anzi, perché lei l'avevo ospitata tempo fa a Salva Danaio, oggi la ritroviamo a Cuore Denari. Buongiorno. Buongiorno, ci sente, eccoci. Benvenuto. Grazie. Moneyfarm, ricordo per chi non la conoscesse, è una piattaforma di consulenza indipendente che costruisce portafogli di investimento basati esclusivamente sull'utilizzo degli ETF. Quindi in questo periodo il mondo dei fondi indicizzati alle materie prime vengono tenuti particolarmente sotto controllo. Più tardi ci collegheremo con un altro ospite, Massimo Siano, responsabile del Sud Europa di ETF Securities. Questa è una società che è stata assolutamente pionieristica nel mondo delle materie prime, perché è stata la società che per prima ha costruito un ETC che puntava sulle quotazioni dell'oro, quindi dobbiamo appunto anche questo primato in qualche maniera a questa società, per cui poi ci faremo raccontare da Massimo Siano come vede questo mercato in questo momento e quali sono le modalità giuste anche per investire, trarre profitto anche da una discesa delle quotazioni del petrolio, che apparentemente è una buona notizia per tanti aspetti. Allora, intanto qualche notizia di cronaca degli ultimi giorni. Da inizio anno sia il Brent del Mare di Londra, del Mare del Nord, che il WTI di New York hanno perso circa il 20%. Due giorni fa, per la prima volta dal 2003 a New York, e si è andati a $29. Ieri questo livello è stato toccato dal Brent di Londra. Questo incredibile ribasso è iniziato dal luglio del 2014, un po' in sordina, per poi scatenarsi letteralmente da giugno scorso. Ne hanno scritto tutti i giornali. I fattori principali che stanno provocando questo calo così dirompente sono tanti. C'è intanto il rafforzamento del dollaro su scala globale, a cui il petrolio, come tutti gli asset quotati in dollari, appunto è inversamente legato. C'è questo prepotente rallentamento dell'economia cinese, che chiaramente ne importa meno di petrolio, e questo comporta tutte le conseguenze in termini di prezzo. Ci sono le strategie geopolitiche dell'OPEC, il cartello dei maggiori paesi produttori di petrolio, che non vuole assolutamente ridurre l'offerta, e questi sono alcuni appunto degli argomenti. Detto questo, dottor Daprà, Investire Informati è il programma rivolto a tutti i nostri amici ascoltatori che guardano con interesse le dinamiche finanziarie per capire quale impatto possono avere queste dinamiche sulle strategie di risparmio e di investimento adottate a livello personale. Molti di questi risparmiatori negli ultimi 10 anni, lo dicevo già in apertura, hanno apprezzato in misura via via crescente il mondo degli ETF, questi fondi di investimento che hanno la caratteristica di replicare fedelmente indici e panieri, e in questo universo ci sono anche gli ETC, che sono gli ETF che replicano l'andamento delle materie prime. Facciamo bene ad immaginare che gli ETC non stiano vivendo in questo momento una fase particolarmente felice? Ma secondo me la tematica non è tanto da riferirsi allo strumento in particolare, ma al rischio dello strumento e al sottostante che replicano. Come penso, appunto, sappiate, il tema degli ETF o ETC sono proprio degli strumenti che cercano di replicare l'andamento del sottostante. Quindi la validità dello strumento in sé non è messa in discussione, però in questo momento in cui il petrolio e comunque tutte le materie prime stanno soffrendo molto, anche cali veramente importanti e complicati da gestire, chiaramente poi di conseguenza comprare un ETC oggi risulta una cosa molto rischiosa, una scommessa vera e propria. Anche perché poi dobbiamo spiegare adesso il funzionamento di questi strumenti. Intanto ci dice dottor Daprà, replicano gli ETC tutte le quotazioni di tutte le materie prime. Ci può fare qualche esempio? Ma dal petrolio al anche le commodity cosiddette, quindi il grano, al nichel, all'acciaio, cioè quasi tutte le materie prime l'oro, che è sicuramente un'altra passaggio importante nel in un portafoglio diversificato. Quasi tutte le materie prime sono oggi coperte da questi strumenti. Senta, tra l'altro, a dimostrazione del fatto che si tratta di un universo che dà certamente delle opportunità di investimento interessanti, e però a dimostrazione del fatto che siano degli strumenti rischiosi, dobbiamo anche spiegare ai nostri ascoltatori la differenza fondamentale fra le due tipologie di ETC che si conoscono e che i professionisti appunto utilizzano, perché possono essere fisici e sintetici. Come spieghiamo in termini semplici ai nostri ascoltatori la differenza fra queste due tipologie di strumento finanziario? Allora, l'ETC come l'ETF deve essere immaginato come un contenitore. Nel contenitore fisico vuol dire che esiste fisicamente la materia prima, quindi per esempio l'oro, l'ETC è proprietario di lingotti, da qualche parte ce li ha, esistono. E questo è quello fisico. Esatto, questo è quello fisico. Mentre quello sintetico, in questa scatola in realtà non c'è la materia prima, ma c'è un contratto, tendenzialmente un cosiddetto derivato, con una controparte che può essere l'emittente dello strumento o una banca, diciamo, d'affari, che replica l'andamento del sottostante. Quindi è una posizione che, diciamo, è sintetica, quindi è generata solamente da un contratto di investimento tra due parti, non ha sottostante la materia prima vera e propria. Per cui, insomma, è bene che i risparmiatori che vogliono puntare una piccola fettina del loro risparmio su questi strumenti conoscano anche queste dinamiche. 800 24 00 24 per tutte le vostre domande sul petrolio, gli strumenti di investimento per investire sul mondo delle materie prime, come stanno andando. Intanto è arrivato Vito Lops del Sole 24 Ore. Vito, ciao, ben ciao. Ritrovato. Buongiorno, ciao. Eccoci qua. Ho già anticipato i contenuti di una serie di pezzi che hai scritto in questi giorni sulle Sole. C'è anche quello di questa mattina, il Sole titola petrolio ad alta volatilità, cade Wall Street. Ieri il mercato americano è sceso parecchio, lo Standard & Poor's ha perso 2,5 punti, il Nasdaq in grande difficoltà ha perso 3,5 punti, il WTI, il greggio di riferimento americano, intorno a $30, ma ieri sera durante le contrattazioni americane è stato il Brent a scivolare a 29 per poi risalire. Tu proprio in questi giorni, dicevo, hai affrontato il tema degli effetti a 360 gradi di questa discesa delle quotazioni, che peraltro per molte case di investimento non è finita qua, e adesso vedremo anche che tipo di livelli vedono. Ma sui mercati abbiamo visto questa reazione molto negativa della borsa. Perché alle borse non piace che il petrolio scenda così tanto, Vito? Beh, perché in questo momento il petrolio è un po' il punto di partenza di una serie di meccanismi a catena che si ripercuotono sui mercati finanziari. Il petrolio riflette quindi il rallentamento dell'economia globale, e quindi se il petrolio continua a scendere vuol dire che i mercati si aspettano con più convinzione un rallentamento dell'economia cinese, che è il secondo consumatore mondiale di barili. Quindi questo vuol dire che se la Cina rallenta, rallentano anche poi a cascata i paesi emergenti. Rallentando i paesi emergenti c'è un contagio anche sui paesi occidentali, sulle esportazioni dei paesi occidentali in questi paesi. In più ci si aspetta nuove svalutazioni dello yuan da parte della Cina per reagire a questo calo, e quindi i mercati, nell'assenza di informazioni più chiare, vedendo, diciamo, il faro tra virgolette del ribasso del petrolio, ipotizzano lo scenario peggiore, quindi vanno a vendere con una fortissima volatilità nel breve periodo, proprio perché mancano appunto delle certezze in questo momento, e quindi gli investitori hanno più paura e quindi nel dubbio preferiscono vendere andando già a scontare lo scenario peggiore. Si è molto discusso in queste ultime settimane della rigidità manifestata dai paesi che appartengono all'OPEC nella rimodulazione dei tetti produttivi. Proprio questa mattina leggevo che la Nigeria sarebbe in procinto di chiedere un'assemblea straordinaria del cartello dei maggiori paesi produttori per affrontare il tema della sovrapproduzione. Vedremo quali decisioni potrebbero essere prese, soprattutto se questa assemblea straordinaria ci sarà o meno, ma intanto la previsione delle più grandi banche d'affari, Vito, tu proprio lo scrivevi in questi giorni, è che la discesa non sia finita, e c'è anche questo aneddoto che si riferisce alle previsioni di Goldman Sachs, che in realtà nei mesi passati aveva previsto il petrolio a $200 al barile, e poi scriveva ieri Vito, ultimamente ha hanno velocemente tolto uno zero e adesso lo prevedono a 20. Sì, infatti, il 2 c'è comunque. Il 2 c'è, dai, anche, una cifra infatti, l'hanno indovinata. Esatto, quindi c'è questa previsione, però in questo caso non è isolata, perché ci sono 3-4 banche d'affari, le più importanti, si stanno in questo momento accodando nell'area tra i 20 e i 25 dollari al barile, che viste le quotazioni degli ultimi giorni, delle ultime ore, non è poi così lontana, anche se in termini percentuali sarebbe comunque un 30% in meno. E ricordiamo che da luglio 2014 il petrolio ha già perso il 70% della propria valutazione, sì, quindi infatti si tratta di un vistoso calo che in parte è legato anche alla rivalutazione del dollaro, che ovviamente è inversamente collegato all'andamento delle materie prime quotate in dollari e quindi anche del petrolio. Allora, io adesso devo andare a sentire, devo andare a leggerli, devo andare a raccontarli io i mercati finanziari, quindi un po' ritorniamo sui temi che stiamo affrontando in questo momento. Poi vorrei anticipare a Giovanni Dapra che gli vorrei fare questa domanda. Per un risparmiatore che avesse in portafoglio un ETC che punta sull'andamento del prezzo del petrolio, se avesse sottoscritto quote di questo ETC quando il petrolio era a 40-50 dollari, adesso come sta andando questo strumento, che cosa deve fare, bisogna uscire oppure avere la pazienza che nel lungo termine, perché molti ascoltatori dicono l'ETC è uno strumento di investimento che forse vale la pena adesso mantenere e conservare per un periodo di tempo un po' più lungo, aspettare magari che le quotazioni si riprendano, e non lo so, Dapra magari ci darà qualche suggerimento su strategie di questo tipo. Domanda che farò poi anche all'ospite che ci raggiungerà più tardi, come vi dicevo, dottor Siano di ETF Securities. Intanto 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, vedo già pronti Bernardo da Fermo e Silvano da Varese. Tutto questo lo facciamo tra poco. Cuore e denari. Siamo partiti proprio dall'oro nero per questo appuntamento con Investire Informati. Il petrolio, che nel giro di un anno e mezzo ha perso il 70% del suo valore in termini di quotazioni internazionali e sta condizionando in maniera molto pesante l'economia globale, i mercati finanziari. Questa discesa è stata determinata da tantissimi fattori che abbiamo spiegato, lo stiamo spiegando da molti giorni in tante trasmissioni, lo stanno facendo tutti i giornali, e tutto questo non può vederci disinteressati nemmeno come piccoli risparmiatori. Poi stiamo allargando il campo anche a tutte le materie prime e gli strumenti che investono sulle materie prime. 800 24 00 24 per tutte le vostre domande e curiosità sull'argomento. Sono con noi Vito Lops del Sole 24 Ore, Giovanni Dapra, amministratore delegato di Moneyfarm. E tra l'altro, Nicoletta, chissà quanti dei nostri ascoltatori lo sanno, si parla, quando parliamo di petrolio, del greggio di riferimento europeo, che è il Brent, e quello americano. Lo sai da che cosa hanno origine questi due nomi? No. Allora, il Brent... Perché ho portato Vito a sostegno. Non lo sa neanche lui. Adesso allora non vi faccio l'interrogazione a bruciapelo. No, io l'ho trovata, domandone. Non è ancora il domandone. Però ci sarà. È una curiosità che ci porta al domandone. Il Brent è il nome di un giacimento di petrolio scoperto nel 1971 nel Mare del Nord, al largo di Aberdeen, in Scozia, il cui sfruttamento è iniziato nel 1976. E il termine caratterizza oggi un petrolio molto leggero, risultato dell'unione della produzione di 19 campi petroliferi situati nel Mare del Nord. Petrolio molto leggero, e tra l'altro ha sempre una differenza di quotazione con il WTI americano, perché si dice che abbia una qualità leggermente inferiore. Il WTI invece è l'acronimo di West Texas Intermediate, conosciuto anche come Texas Light Sweet. Insomma, qua abbiamo tutta la terminologia americana, e questo è il tipo di petrolio greggio usato come parametro di riferimento per i contratti future al New York Mercantile Exchange. E insomma, qua abbiamo dato qualche curiosità. Allora, andiamo allora al domandone, va? Visto che stiamo parlando di record mai visti per le quotazioni del prezzo del petrolio, chiedo ai nostri ascoltatori, e voglio le vostre risposte all'800 24 00 24, ricordate, se non ricordate andatelo a cercare, so che troverete le modalità allora, per cercare dai, le informazioni, quando è stato toccato il massimo storico del petrolio in termini recenti, mi riferisco in questo caso al Brent, quindi a quello nostro, a quello europeo, e se volete essere proprio i primi della classe cercate anche magari quando ha toccato il suo minimo storico. Il primo record risale a qualche anno fa, e il secondo, quello del minimo storico, dobbiamo andare a qualche anno indietro ancora, ma insomma potrete sbizzarrirvi se volete che apriamo la libreria di cuore e denari. Quindi massimo e minimo storico. Esattamente, del Brent. All'800 24 00 24, appunto, attendiamo le vostre risposte. Intanto do il buongiorno al nostro terzo ospite di oggi, che questo calo del petrolio su questi livelli l'aveva previsto esattamente un anno fa. Saluto e ringrazio Massimo Siano, capo delle attività del Sud Europa di ETF Securities. Ho tradotto in italiano la sua carica, dottor Siano. Intanto buongiorno anche lui in collegamento da Londra questa mattina. Ci buongiorno, senti? Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, perché ho interpellato il dottor Siano, se la ride quando gli riconosco questo primato della sua analisi di un anno fa, non solo il petrolio a $30, ma anche dimenticato. Vede, invece noi andiamo a cercare le conferme delle notizie che diamo, quindi ieri ho trovato i suoi video, quindi non è tra l'altro un'intervista scritta, perché magari poteva anche essere stata modificata, è un'intervista proprio televisiva, per cui si può vedere chiaramente quello che diceva. E aveva previsto anche l'euro-dollaro a 1,1, a 1,10. Per sì. Cui anche questo le devo riconoscere. Però noi l'abbiamo interpellata stamattina perché ETF Securities è la società che ha sviluppato e lanciato per prima sul mercato il primo ETC al prezzo dell'oro. Quindi pionieri da ogni punto di vista. Anche sul petrolio. È stato uno dei primi. Senta, allora, visto che fa delle previsioni il primo assolutamente. Come state gestendo i vostri ETC sul greggio in questo momento in cui le quotazioni hanno questa discesa così prepotente, dirompente così forte? No, beh, il petrolio è talmente liquido che non c'è problema su... Cosa vuol dire che è liquido, non c'è problema? Nel senso che se ci sono società che vogliono comprare ETC sul petrolio per milioni di dollari, trovano la liquidità in borsa con un click in un secondo. Quindi sostanzialmente gli ETC hanno... C'è un rimbombo sulla chiamata. Ah, ecco perché possono sentire? No, noi la sentiamo benissimo. Non lo so se lei sta utilizzando un auricolare, un viva voce, allora magari preferiremmo che utilizzasse la cornetta normale. Altrimenti ripristiniamo la telefonata. No, però va bene, non è importante, basta che sentate voi. No, però se... L'ETC è liquidissimo, come si può vedere anche dai report di Borsa Italiana, e noi abbiamo avuto sul Brent e WTI afflussi per 600 milioni di dollari soltanto da Borsa Italiana, tanto per dare la liquidità. Quindi gli spettatori, sia la vendita che l'acquisto, con un click online sul vostro concorrente possono stare tranquilli. Quindi questo che cosa vuol dire? Che comunque, nonostante la discesa del prezzo del petrolio, su questi strumenti, sugli ETC legati al petrolio, c'è ancora molto interesse, la discesa delle quotazioni non preoccupa per chi investe con questo strumento? No, preoccupa, come? Ah, ecco. Perché, certo, perché gli investimenti, gli ETC sono molto rischiosi. Quindi no, se soffrite di cuore non comprateli. Addirittura, insomma, quindi va contro il suo interesse. Ecco, e non aiuta a scrivere, certo, a cuore denari, esatto, se soffrite di cuore. Come deve gestire un piccolo risparmiatore la dinamica delle materie prime, dottor Siano? È molto semplice. Se il piccolo risparmiatore non capisce niente di commodities, non deve comprarli. Benissimo. Ammettendo che invece ci sia qualcuno un po' più interessato alla cronaca internazionale, vorrebbe trarre vantaggio anche da una situazione così movimentata, cosa deve fare? Ammettendo che il portafoglio investito in questo mercato sia limitato, ovviamente tutto il portafoglio sia molto ben diversificato. Sì, esatto. Con queste premesse abbiamo sul mercato ETC sia long che short sul petrolio. Sì, poi ci spiega. Quindi, in termini per gli semplici, investitori, sì, che pensano che il petrolio scenda, questi investitori dovrebbero comprare un ETC short. Se hanno una certezza molto forte sulla discesa del petrolio, possono comprare un TC short addirittura leva 3. Vabbè, però cioè lei ci deve tradurre in termini umani questo concetto, dottor Siano, chiaramente, perché umani, sostanzialmente che se il petrolio fa meno 2% in un giorno, sì, l'ETC short performerà più 2%. Ah, ecco, quindi va... L'ETC short a leva 3 performerà 2 per 3, che è l'effetto leva, quindi 6 più 6%. Certo, diciamo che ci ha convinto del fatto che è meglio stare lontani da questo mercato. Eppure in realtà, torno per un attimo a Giovanni da Pra, è un mercato che è cresciuto moltissimo negli ultimi anni, no? A prescindere dalle dinamiche molto complicate di funzionamento, peraltro non abbiamo neanche toccato il tema del rischio cambio, che movimenta ancora di più e amplifica magari i valori e le quotazioni di questi strumenti. Da Pra però sono cresciuti molto, come dicevo. Sì, assolutamente, sono cresciuti molto. Io quello che vorrei sottolineare è che sono comunque strumenti molto complicati, ma su un mercato molto, molto difficile. Per esempio, noi abbiamo e consigliamo ai nostri clienti di avere degli ETC in portafoglio, però non consiglierei mai a nessuno che non abbia veramente 12 ore al giorno da dedicarsi a studiare come va il mercato delle materie prime, di diciamo fare del fai da te e comprare degli ETC, men che meno a leva, diciamo, come suggeriva anche Siano. Senta da Pra, qual è il profilo dell'investitore secondo i monitoraggi che fate voi di Money Farm, che punta su questo mercato? Esiste anche un portafoglio medio che viene indirizzato appunto verso il mercato delle materie prime? Esiste una tipologia di investitore in questo ambito che si può descrivere? Allora, noi per quasi tutti i nostri portafogli abbiamo una componente materie prime, tranne diciamo un portafoglio simil monetario, quindi proprio poco rischioso. Però stiamo parlando di componenti materie prime che vanno dal 2,5% al massimo 5-7,5% del portafoglio. Quindi noi sono questi gli intervalli che consigliamo, perché comunque le materie prime, io sono d'accordo sul, come ha detto lei in precedenza, che non si possono vedere troppo a breve termine, quindi noi siamo positivi sul petrolio, ma positivi vuol dire nei prossimi 1, 2, 3 anni, non è certo una cosa che certo. Pensiamo vada, perdono l'inglesismo, però tradata, diciamo, quindi continuato a vendere e comprare nei prossimi mesi, perché quella è la ricetta per perdere soldi. Allora ci fermiamo da Pra, Lops e Siano, perché adesso abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio. Intanto vi ricordo il numero verde per intervenire, l'800 24 00 24. Avevo già promesso di far parlare Bernardo e Silvano, con i quali mi scuso, ma adesso si è aggiunto anche Massimo da Cuneo. Vi sentiamo subito dopo aver ascoltato cosa sta accadendo sulle strade italiane. Cuore e denari. Musica di Rischiatutto che ci richiama al nostro domandone. Stiamo parlando di petrolio e dintorni. Oggi abbiamo dato anche alcuni numeri sui massimi e i minimi toccati negli ultimi giorni dall'oro nero sia a Londra che a New York. Voi vi ricordate quando è stato toccato il massimo storico del Brent e anche il minimo storico del greggio di riferimento europeo? Chi saprà dare la data precisa, naturalmente, come sempre, beneficerà dell'apertura della biblioteca di Cuore e Denari, ma valgono solo le risposte date all'800 24 00 24. Noi abbiamo salutato Massimo Siano, che facevamo molta difficoltà a sentire, per insomma le loro strategie di investimento di ETF Securities, se ce le ha raccontate. Sono rimasti con noi Giovanni da Pra, amministratore delegato di Money Farm, e Vito Lops del Sole 24 Ore. Direi che a questo punto è il caso di sentire i nostri amici che ci seguono da casa. Bernardo da Fermo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno alla coppia più bella del mondo. Che buon gustaio. Bravo. L'ascolto sempre volentieri, ascolto la trasmissione. Grazie. Un saluto anche ai suoi ospiti. Ci dica. A proposito di oro nero, vorrei fare un piccolo investimento. Sento un rimbombo, non capisco. E stamattina sarà colpa nostra. Domani facciamo una puntata sull'udito. Rimbombo, lo sento, ecco. C'è davvero, è falso. Sono i fantasmi della radio. Vada Bernardo, non è che deve per caso abbassare la radio? No, no, no. non ce l'ho, ce l'ho spenta. Non l'ho proprio spenta. Stiamo tutti in silenzio, provi con la sua domanda. Senta, guardi, io vorrei fare un piccolo investimento, differenziare gli investimenti, e vorrei fare un piccolo investimento in oro. Mm. Visto che io 3 anni fa ascoltavo sempre le vostre trasmissioni e sentivo l'oro a 1350 euro l'oncia, oggi sta a 1070 euro l'oncia. Conviene fare un investimento materiale in oro? Grazie Bernardo. Guardi, le metto insieme anche la domanda di Silvano da Varese, che più o meno è orientata sullo stesso campo. Diciamo che dall'oro nero vogliono tornare tutti su quello tradizionale, alla luce di queste oscillazioni dei mercati. Silvano, benvenuto. Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori. Sì. La mia domanda è molto semplice. Io posso, a parte che sono un italiano e per esigenze lavorative sono quasi sempre all'estero, sì, ma comunque un capitale di circa 300.000 euro volevo investirne su proposta di una società londinese, lingotti d'oro depositati, 100.000, un terzo del capitale, in banca del Zurigo, effettivamente. Volevo sapere dal vostro esperto cosa ne pensava. Allora, sì, diciamo che stamattina Silvano, proprio l'esperto specifico sulla materia prima oro, non ce l'abbiamo, perché anche quello è un mondo molto variegato, perché si può andare dal lingotto, dalle monete, ai fondi di investimento delle società aurifere che contiene, quindi insomma è un mercato anche quello molto molto variegato, però abbiamo due persone che in ogni caso sono molto attente su questi argomenti. Non mi hai considerato, per cui hai visto, volevi parlare proprio tu. Non mi ha considerato proprio. No, io sono sempre molto colpita di chi chiama proprio con capitali di un certo tipo e chiede un suggerimento alla radio, sì, su come muoversi, sì, per cui poi, comunque Silvana è un gran bel partitone, eh? Esatto. Le tue idee sull'oro, Vito Lops, come sta andando in relazione all'andamento del petrolio, l'andamento dei mercati in questi scenari dei paesi emergenti in forte crisi e anche alla prospettiva di un'America che aumenta i tassi di interesse e di una banca centrale europea che invece è costretta ancora a raschiare il barile e a fare politica monetaria molto espansiva? Allora diciamo che innanzitutto l'oro è quotato in dollari, così come il petrolio e le principali materie prime, e quindi soffre di una spinta al rialzo del dollaro, che quindi svaluta il valore nominale, il prezzo in dollari della stessa moneta, e questo lo vediamo anche in queste fasi di avversione al rischio sui mercati azionari, in cui tendenzialmente il bene rifugio per eccellenza, cioè l'oro, avrebbe dovuto fare scatti importanti. Da inizio anno è sì in rialzo, ma sta collezionando dei mini rialzi che indicano che non ha una straordinaria energia, una straordinaria forza. Un altro fattore che lascia un po' perplessi circa un investimento anche magari di un terzo, come sentivo al telefono, del patrimonio. Stavo pensando la stessa cosa, mi pare una porzione un po' alta. Una porzione abbastanza alta è legato al fatto che loro tendenzialmente negli anni, soprattutto negli anni 80 eccetera, andava molto molto bene perché era il bene che proteggeva dall'inflazione, e quello era un mondo che ci aveva abituato a vivere con un'alta inflazione. Invece in questo momento stiamo affrontando quella che può essere definita era dei tassi bassi, perché ormai sono anni che le principali economie del mondo soffrono la disinflazione, la bassa inflazione o addirittura in alcuni mesi la deflazione, e le prospettive di un futuro con grande inflazione al momento non sembrano all'orizzonte, visto che lo stesso governatore della Banca Centrale, Mario Draghi, più volte ha detto che dobbiamo abituarci a vivere a lungo con tassi bassi, eccetera, eccetera. Questo significa che l'oro non ha nel bene rifugio contro l'alta inflazione una dinamica di spinta di acquisto, e quindi sia per quanto riguarda il dollaro, che tendenzialmente dovrà ancora rafforzarsi o rimanere molto molto forte, sia per quanto riguarda le prospettive di bassa inflazione, questi due fattori non vanno a vantaggio di un forte posizionamento sull'oro, per quanto il prezzo sia obiettivamente in questo momento più basso rispetto agli ultimi anni. Allora 800 24 00 24, continuate a prenotare i vostri interventi sia per rispondere al domandone ma anche per le vostre curiosità su questi scenari di mercato così complicati che stiamo vivendo in questo momento. Prima di sentire Massimo da Cuneo, vorrei sentire invece le considerazioni di Giovanni da Pra sul mondo dell'oro ETC, che puntano appunto sulla commodity per eccellenza, anzi quella per eccellenza forse è il petrolio, non so, il mondo degli investimenti quali consideri di dignità più alta. Insomma, sull'oro le sue riflessioni da Pra quali sono? Ma io sono assolutamente d'accordo con Vitor Lopes, nel senso che loro andava molto in volta appunto un po' di anni fa per il tema di un'aspettativa di inflazione generata dalle manovre espansionistiche delle banche centrali, ed era stato inserito nei portafogli dei grandi investitori istituzionali proprio con quest'ottica di assicurazione su uno scenario di quel tipo lì. La realtà dei fatti è stata che quella cosa lì non si è verificata, e in particolare oggi col tema del petrolio così basso è ancora più lontano uno scenario inflazionistico, quindi noi per esempio non lo consigliamo in questo momento nei portafogli. Detto ciò, mi raccomando la cautela comunque per l'ascoltatore, anche se fosse convinto che sarebbe una cosa giusta da fare, si tratta comunque di qualcosa che ha molta volatilità, non ha un valore intrinseco, no, quindi perché non genera un po' di prudenza, quindi soprattutto se si vuole destinare una fetta così ampia del proprio portafoglio ad una singola asset finanziaria. Allora, fra un po' abbiamo Roberto da Varese, esatto, infatti che ha la sua risposta sul domandone di oggi, però un flash a Massimo da Cuneo, gliela vorrei permettere questa domanda perché è un tema interessante del quale si fa una lunga analisi anche sul Sole di stamattina. Massimo, veloce, grazie. Sì, pronto, buongiorno a tutti. Sì. Innanzitutto complimenti per la trasmissione e un saluto a tutti. Grazie, vada ecco, Massimo, che tardi. Allora, volevo chiedere questo. Visto questo abbassamento del prezzo del Brent, secondo i partecipanti, secondo i vostri ospiti, è previsto un prezzo minimo, un prezzo base, diciamo un pavimento oltre il quale per i paesi produttori di petrolio non conviene più produrre petrolio, quindi un limite fisico oltre il quale chiaramente il prezzo non potrà andare sotto? Grazie Massimo, in realtà negli Stati Uniti, Vito, già la soglia dei $50 è stata estremamente critica, ha mandato a scatafascio tante aziende, tanto per essere così chiari e sintetici. C'è stato ieri uno studio in cui è emerso che praticamente circa un terzo dei produttori di shale oil negli Stati Uniti sono destinati al fallimento nel 2017 qualora il petrolio continuasse a essere sensibilmente sotto i $50 al barile. Quindi insomma il pavimento al di sotto del quale l'industria del settore vivrebbe una crisi veramente enorme, quale potrebbe essere? Io penso che già questi $30 non siano proprio una buona cosa. No. Per l'industria, diciamo. Per l'industria sicuramente no, perché comunque c'è un eccesso di offerta e ci sono molti paesi produttori che hanno basato i budget di spesa dei propri paesi sui ricavi di petrolio tra gli 80 e i $90 al barile, parliamo soprattutto di quelli della zona del Medio Oriente, quindi diciamo che un petrolio già su questi livelli per un lungo periodo potrebbe essere problematico. Però insomma Massimo, nessuna casa di investimento dà un target molto preciso in termini di ribassi. Roberto da Varese, la sua risposta velocissimo? Allora, il minimo $9.55. Quando? Il massimo il 10-12 del 98. Sì, il massimo? 147,25. L'11/07/2008. A Roberto un bel pieno di benzina stamattina, regaliamo perché se lo merita, oltre che qualche libro, okay, magari quello sul metabolismo perché forse gli dà un po' di energia. Grazie a Vito Lopes, a Giovanni da Pra. Noi torniamo domani alle 10:30. Buona giornata.